tanta gente scappata si è accorta che stava succedendo qualcosa di drammatico e di spaventoso, gente che si buttava a terra, e i quattro colpi indirizzati hanno colpito ovviamente l'immaginario della gente, e sono stato l'unico di fatto ad avvicinarmi a quell'uomo ancora in costume sulla sabbia, col suo volto devastato dai colpi d'arma da fuoco che sono stati esplosi a bruciapelo sulla testa. Certo. Era una pozza di sangue, e a pochi metri c'era la moglie con un cucciolo di bambino. Mi spieghi un pochino la reazione della moglie. Sono curioso di sapere come ha reagito la moglie di fronte ad un omicidio di un uomo che è suo marito, ma che è anche, come dire, una persona, adesso le indagini lo appureranno, ma sembra molto molto vicino alle cosche del luogo. Ma guardi, io sono rimasto profondamente colpito dall'atteggiamento, nel senso che mi aspettavo di fatto una reazione emozionale importante. La donna si trovava a pochi metri dalla salma, dal corpo trucidato dai colpi. Si figuri, ancora non appena sono arrivato io c'era una perdita massiva di materiale organico che usciva dalla testa. Certo. La donna aveva un bambino in braccio con un ciuccio e mi è apparsa molto distaccata, molto distaccata. E io l'ho invitata ad allontanarsi, considerata la scena drammatica, e certo, lei mi ha chiesto di verificare se era morto.